ricorderai. Parlavamo l'altro ieri di come qualcuno stia cercando di anestetizzare i tuoi pensieri e i tuoi desideri, sostituendoli con falsi ideali, pensando ai propri affari, così. Certo che lo so che hai bisogno di sentirti amata, coccolata e straconsiderata, ma ora sei solo una cosa usata, una donna sola che ha creduto nell'amore, pensando che l'amore fosse lui. Tu sei invincibile solo se alla vita tua pensi da te, e sarai inespugnabile se saprai distinguere la verità, anche se qualche volta non sarà come credevi tu. Riconsiderando i fatti, quanto hai dato e quanto hai ricevuto, l'illusione che lui fosse sincero e che ti amasse per davvero, e non è stato un caso che avesse scelto te tra tutte la più vulnerabile. Tu sei invincibile solo se alla vita tua pensi da te, e sarai inespugnabile se saprai distinguere la verità, anche se qualche volta non sarà come credevi tu. Thank you.